Oggi parliamo di turismo responsabile con Simona Zedda, presidente di Associazione Yoda. Sabato 14 e sabato 21 ci saranno due giorni di corso di alta formazione a Camugnano, qui da noi nell'Appennino bolognese, proprio sull'argomento del turismo responsabile. Ti chiederei da subito, Simone, innanzitutto, per chi come me è anche abbastanza profano dell'argomento, che cos'è esattamente il turismo responsabile? Allora, buongiorno a tutte e a tutti. Vorrei fare una piccola correzione perché non sono la presidente, però faccio parte di Associazione Yoda, che è l'associazione che da tanti anni organizza, adesso siamo al 17esimo, organizza il Festival Itaca, cioè il Festival del Turismo Responsabile. Ok, diciamo che hai usufruito di una promozione in questo inizio. Sì, ho usufruito di una promozione, esatto, di una promozione. Quindi noi da tanti anni, quindi da 17 anni, io in particolare lavoro dentro Itaca, questo progetto di Yoda, APS Nexus Emilia Romagna, da più di 10 anni, organizzo e coordino la tappa di Bologna e quindi ci occupiamo di turismo responsabile da tanti anni. Cos'è il turismo responsabile? Il turismo responsabile è un turismo che cerca il più possibile di ridurre l'impatto sull'ambiente. L'impatto c'è perché comunque si tratta di un'attività economica che valorizza il territorio per far arrivare delle persone che comunque vuoi o non vuoi consumano risorse, percorrono le strade. Ovviamente c'è modo e modo di viaggiare. Viaggiare è un grande arricchimento personale e culturale, quindi gli esseri umani viaggeranno sempre, però si può fare in modo sostenibile, diciamo, dal punto di vista della gestione appunto turistica di un territorio. Per chi gestisce per esempio una struttura ricettiva si può ridurre il consumo di energia, si può risparmiare l'acqua con degli strumenti specifici, con degli impianti specifici, oppure si può valorizzare nel caso delle DMO, quindi delle Destination Management Organization, si può cercare di promuovere il territorio in modo più integrato, quindi in modo più ampio, quindi non far concentrare i turisti tutti in una stessa zona. Insomma, gli espedienti a livello gestionale sono tanti. Sì, sì, ci sono vari accorgimenti, da cose estremamente tecniche ad altre invece appunto di come organizzare i flussi turistici. I flussi turistici. Perché per un turista è lì a livello personale il turismo responsabile si collega molto col consumo critico, diciamo che viene un po' da quella scuola. Inoltre ovviamente bisogna rispettare l'ambiente, cercare di andare nei posti frequentati dalla comunità locale, quindi non in quei turistifici che vengono creati ad hoc, ovviamente rispetto appunto delle risorse naturali, e soprattutto cercare di scegliere appunto luoghi in cui vengono cucinati, ristoranti, prodotti locali, cercare di vivere il territorio in modo da non essere un peso, essere il meno possibile un peso, ecco. Arrivando agli argomenti e alle due giornate di corso, il corso è suddiviso in 4 moduli, 2 si terranno sabato 14, altri 2 sabato 21, e si parlerà anche appunto non solo di come rispettare l'ambiente, ma anche di come, facendo questo possa diventare un vero e proprio lavoro, anche perché si può usufruire di finanziamenti, di vari incentivi. Assolutamente sì. Ecco, ci tenevamo a fare un corso sul turismo responsabile proprio in un'area fragile che è quella dell'Appennino. Abbiamo visto com'è la fragilità di queste zone. Noi promuoviamo uno sviluppo appunto dell'economia di prossimità, di una distribuzione economica a favore della comunità locale. È un modello di gestione come quello del turismo responsabile. Se un territorio ha già avuto, come quello fra l'altro di Camugnano, una vocazione turistica, se già si vuole investire appunto in questo settore, ovviamente noi abbiamo organizzato questa formazione proprio in collaborazione col comune che ci crede, quindi questa formazione proprio per promuovere un modello gestionale che sia appunto sostenibile per un territorio così fragile. E oltretutto è, come molte zone dell'Appennino, dal nord al sud Italia, è soggetta ormai allo spopolamento, quindi comunque il turismo non può essere l'unico settore da promuovere, quindi su cui investire, però sicuramente può contribuire a creare appunto del lavoro e quindi a creare... Sì, quello che si chiama l'indotto. Esatto. certo, l'indotto e quindi creare delle condizioni favorevoli affinché le persone ci possano abitare anche tutto l'anno. E quindi diamo, questo corso si propone di essere anche molto pratico, quindi diamo degli strumenti, oltre che teorici, degli strumenti molto pratici per poter progettare, quindi realizzare un'attività di turismo responsabile, non solo, ma anche un'attività culturale, perché in effetti quando si parla di turismo è molto difficile tagliare questo settore con l'accetta, perché è veramente un comparto che comprende moltissime cose, fra cui anche tutto il settore culturale. A noi piace che le attività e le iniziative, soprattutto quelle culturali, vengano fatte innanzitutto per i cittadini. Una cosa su cui abbiamo anche investito, diciamo, in questa formazione, è il fatto di creare rete con i servizi territoriali che già ci sono. Ci sembrava inutile fare una formazione che fosse un po' la ripetizione di tante altre, ma invece abbiamo proprio chiamato delle persone che gestiscono dei servizi proprio a livello territoriale, in modo che chi frequenta il corso abbia anche questo genere di orientamento all'interno appunto del territorio metropolitano. Il corso, nonostante sia così denso di contenuti, è assolutamente gratuito. Sì. Addirittura ho visto che anche i pranzi sono offerti, quindi assolutamente sì. Diciamo che uno, se veramente intenzionato, ha un'occasione davvero unica per approfondire questa scienza che è il mondo del turismo. Si terrà alla Sala Parco presso il municipio, sì, di Camugnano, sì, in piazza Kennedy 1 a Camugnano. Allora, sì, chi vuole iscriversi cosa deve fare concretamente? Chi vuole iscriversi in realtà è tardi, perché le iscrizioni sono chiuse, ahimè. Però può comunque mandare una mail e cercheremo sicuramente di metterlo in lista d'attesa.